Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È l'aprile del 1821. Buona giornata, un'altra puntata speciale del Gazzettino del Risorgimento dedicata alle rivolte piemontesi che sono state sedate. La debolezza di Carlo Alberto, l'intervento austriaco, ci racconta tutto anche oggi il nostro inviato a Torino Paolo Piacenza. Paolo. Sì, buongiorno Simone. La vicenda piemontese ha avuto improvvisi sviluppi e si è conclusa con una rapida sconfitta dei costituzionali. Come sapete, qui da metà marzo comandavano loro e anche il principe Carlo Alberto, reggente al posto dell'assente Carlo Felice dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele I, sembrava dalla loro parte, sembrava perché, si è saputo poi, il principe, dopo aver concesso la Costituzione di Spagna, è stato smentito dal sovrano Carlo Felice. Carlo Alberto ha tenuto nascosta la disapprovazione 3 giorni, ha perfino nominato Santorre di Santa Rosa ministro della guerra, poi si è risolto a obbedire, quindi con un voltafaccia. Alla mezzanotte del 21 marzo ha raggiunto Novara, dove si trovava un generale fedele al re, il de la Tour, sperando di trovarvi anche l'ordine del re di assumere il comando delle truppe per tornare a Torino e liberarla. Invece gli è stato detto di partire subito per la Toscana, alla corte del suocero. Pare che vi resterà lungo e tra l'altro è passato per Modena e Carlo Felice non ha neanche voluto riceverlo. Proprio vicino a Novara, alla Bicocca, è avvenuto uno scontro tra le truppe austriache del generale Bubna, affiancate dai piemontesi fedeli al re, e le truppe piemontesi che inalberavano il tricolore. Queste ultime sono state sconfitte, a Torino sono arrivati gli austriaci e si è in attesa del sovrano, che pare intenzionato a punire durissimamente la rivolta. Sappiamo che si sta preparando un decreto, ecco una scheda con alcune anticipazioni. Ci sono tutti i timori per le nuove rivolte nell'editto repressivo che il re Carlo Felice si appresterebbe a varare. Viene proibita qualsiasi riunione segreta e viene fatto divieto ai sudditi di aderire a società segrete. Tra le pene previste, il carcere, per non meno di un anno e fino a 10. Mentre per i dipendenti pubblici c'è il licenziamento immediato, non solo nel caso siano degli aderenti a queste organizzazioni, ma anche nel caso ne sappiano qualcosa, ma non denuncino. Chi ospita le riunioni verrà trattato alla pari di un cospiratore. Il sovrano starebbe anche lavorando su provvedimenti restrittivi per quanto riguarda la stampa, oltre che ad un indulto che non dichiaro ancora, se e quanto riguarderà i detenuti per motivi politici. Per chiudere, pare che il sovrano abbia scritto da Modena: guai a quel suddito che si permettesse anche solo di mormorare contro le misure che il re stimerà necessarie. E con questo per ora è tutto. Nel frattempo la rivolta napoletana, come già vi abbiamo raccontato, si è esaurita dopo la disfatta a Rieti. Le truppe austriache sono entrate a Napoli e hanno sciolto il Parlamento. Per i ribelli è stata istituita la corte marziale e a capo della polizia è stato messo Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa, che aveva già ricoperto quel ruolo. Canosa si dimise in polemica col primo ministro, che per il furore antirivoluzionario lo aveva soprannominato Santa Fede Canosa. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, andate a visitare il nostro blog, visitate naturalmente anche la nostra pagina Facebook e lasciateci un commento, fatelo prendendo penna e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.